11.05, torniamo in onda con Parole Ribelli, continua la mattinata informativa sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Francesca. Un buongiorno a tutti e tutte anche da Eddie. E un buongiorno da Silvestro. In apertura diciamo subito che il nostro saluto va alla Boba, che sta bene, è a casa, è ai domiciliari, e invitiamo a tutti e tutte a sommergerlo di chiamate, messaggi, visite, tutto quanto per fargli sentire quanto lo amiamo. Sì, questo per rispondere anche a un messaggio che era arrivato in transizione tra l'info e Parole Ribelli. Appunto, Marco sta bene, si può andare a trovarlo, non ha restrizioni, quindi insomma l'invito ovviamente è quello che faceva Eddie. Vi ricordiamo anche i contatti per continuare a scriverci nel corso della trasmissione: 346-667-3263 il numero di cellulare, 011-249-5669 il telefono fisso. Vi lasciamo alla playlist di Silvestro ancora per qualche minuto, poi iniziamo con la puntata. Ils me prennent comme mère pour avoir des frères. Je deviens celle avec qui passe le plus de temps. Et ils sont fiers d'être de mes enfants. Ils portent mes couleurs dorénavant. Ils doivent prouver qu'ils sont dignes de mon rang. Me prouver à moi en prouvant à leurs frères qu'ils en ont dans le froc en provoquant l'enfer. Qu'ils puissent étoffer leur palmarès pour alimenter le pacte jusqu'à ce qu'ils se perdent dans leur prouesse. Leur ai inculqué qu'il y a ni bien ni mal. J'étais faible et fort à l'instinct animal. Parce que dans mes artères coule la jungle. C'est chacun pour toi et tout pour celui qui va gêner. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds, dans mon chagrin. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds, dans mon chagrin. Viens, tu m'as choisi comme mère quand tu es en vadrouille. Reste avec moi, si tu es en colère, j'apprendrai la débrouille. Tu n'as pas de place dans leur monde, mais ici je t'en donne une. À toi de la garder du ciment, tu peux faire fortune. Conduis-toi comme un roi, le reste viendra. Je suis avec toi, mais faut honorer le pas, te souviens-toi. Je t'enseignerai l'agilité pour dompter la chance. J'ai composé la chanson, celle où le tien qui mène la danse. Leur orphelin, je t'offrirai des tentations, des héritages d'adrénaline pour accueillir tes tentations. Tes parents vont me maudire, alors sans une excuse pour moi, tu vas les faire souffrir. Je serai la cause de vos disputes, moi. Qui t'accueille à bras ouverts si tu prends la porte. Viens, j'offrirai de l'argent à te faire et plein de potes qui seront tes compagnons, tes frères, car mes fils aveuglés de ta cœur joie que tout ton projet dans mes vies. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds dans ton chagrin. Je suis la rue, la mère des enfants perdus qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds dans ton chagrin. Pour monter en grade, c'est volti comme plus des valises. Mais tu balises pas, ça t'aide à fuiter ta malice. Mais réalise que si tu te fais pincer, tu n'as plus de valeur à mes yeux. Tu seras seul, moi. Mes enfants sont nombreux, mais même en col, tu seras fier d'être un de mes mômes. Moi qui ai caché ta vie en te façonnant dans mon monde. Je t'ai détourné des tiens, ta famille, tes études. Et toi, tu me sens des louanges. Certains font même des rats sur moi. Je dois convaincre les indécis qui goûtent de mes vertus. Je suis la mère diabolique des enfants perdus. Certains ont laissé leur vie si jeune et sûre à croire. Mort pour l'honneur, pour le pacte, mort pour ma gloire. Sans troubler ton cœur, je me nourris de ces âmes perdues. Si jeune et en pleurs, en manque d'amour, je suis le retour de ces gosses en chagrin. Laisse pas traîner ton fils, sinon il deviendra le mien. Je suis la rue, la mère des enfants perdus. Il se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds dans mon chagrin. Je suis la rue, la mère des enfants perdus. Il se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la rue. Viens, te perds dans mon chagrin. Le 11.09 sulle libere frequenze di Radio Blackout, andiamo a presentare la puntata di Parole Ribelli che si appresta a cominciare. Inizieremo come sempre con un po' di rassegna stampa, con notizie degli ultimi giorni che in modo più o meno diretto ci riguardano, riguardano la vita universitaria. Poi faremo un collegamento da Roma, dove oggi Marino andrà nel liceo classico Mamiani a probabilmente a riempirsi la bocca ancora una volta di parole vuote. Bene, gli studenti della scuola hanno indetto un presidio per prendere parola, e anche probabilmente saranno presenti anche i movimenti di lotta per la casa, quindi ci collegheremo dalla scuola romana. Sentiremo poi uno studente della biblioteca autogestita del terzo piano per la presentazione della settimana di Margini. E infine andremo a dare qualche aggiornamento sulla situazione della Cavallerizza, sull'assemblea che da alcuni mesi si sta mobilitando in difesa di quello spazio, e ci faremo presentare i prossimi appuntamenti. E questo è più o meno quanto per questo martedì, vi lasciamo un po' di musica mentre prepariamo le prime dirette. Questo è Luci, Sinto volume 2, Finger Crew, Roma, va così, se vuoi se no, non volevi farlo, non te riesce, volevi farlo a te no, non te riesce, sulla terra che calpio non si crede, famo compatto, famo la cosa nostra. G, io non mi scordo Paolo, tu pensi che io non mi scordo di niente. Una volta mi hai detto non cambiare. Ci scusiamo per il brusco cambio del pezzo, ma volevamo mettere i Broken Speakers, no, non ci riesce, quindi cambiamo. Sì. Andiamoci dietro tutti questi stronzi di merda, ti voglio bene, basta. Sì, già. Dico Paolo, quei ragazzi d'oro ultimamente c'hanno troppe cose in testa e si fanno i cazzi loro. Ma hai ascoltati questi fatti in coro, non mi hanno ucciso sti 10 anni coglione, tu non mi ammazzi buono. Una vita fisica passata a farci domande su cosa fosse giusto, cosa più importante. E siamo degni, siamo tanto abbastanza, pomeriggi intere di New York ripresi in una stanza. Molta per definizione, ascolto 10 volte di fila l'attacco di una canzone. Ma come cazzo ho tagliato il campione, merda, ricordo sci-fi di 30 persone. A scuola poca anatomia e letteratura, ho reso questa roba mia, ogni mia letteratura. Per quanto mi riguarda, che Dio ci benedica, ma è un tuffo che un wheel, io lo studio per la vita. Abbiamo sfregato i nostri pollici sui tocchi oggi. Il sole in alto splende ma non scala. Come diceva qualcuno, una vita non basta. Allora iniziamo a entrare un po' nel vivo della puntata, andiamo a commentare un articolo che è uscito pochi giorni fa sulle pagine online della Stampa di Torino, che titola "La manifattura tabacchi all'università, qui il nuovo campus di scienze motorie". In realtà si tratta di una questione abbastanza vecchia e annosa, perché attualmente gli studenti e le studentesse di scienze motorie sono tra quelle facoltà che sono costrette a sparpagliarsi in punti opposti della città per seguire le lezioni, una situazione simile a quella di lingue. Per quanto riguarda scienze motorie in realtà ancora peggio, perché una parte delle lezioni vengono seguite in piazza Bernini, altri studenti vengono poi spediti a Leni, che insomma non è proprio dietro l'angolo, e poi anche per le varie attività insomma sono sparpagliati in vari centri sportivi dati incomodato d'uso dal comune. Da diversi anni appunto si parla di riadattare quello che è lo spazio dell'ex manifattura tabacchi di Corso Reggio Parco, che invece attualmente viene utilizzato come centro immatricolazioni, e di darlo appunto agli studenti del SUISM. Finora appunto non si era mosso nulla, adesso a quanto pare qualcosina. Il comune si sta attivando con un bando per dare appunto l'appalto a qualcuno per sistemare questo spazio. Sì, ovviamente i disagi che vivono gli studenti di questa facoltà esistono ormai da tempo, guarda caso giusto in questo periodo l'università se ne ricorda, perché giusto in questo periodo è un periodo in cui viene tirato sul campus e vengono diciamo proposte nuove forme di organizzazione dell'università stessa, come quella di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata, la fondazione universitaria nata adesso sul territorio. Insomma, se si tratta di cambiare qualcosa in nome del disagio di chi vive l'università, non si muove una mosca. Se si tratta di avviare progetti mastodontici per ristrutturare proprio il dispositivo università, allora le cose partono. Tra parentesi, l'ultimo appunto su questa vicenda è che la collaborazione col Demanio, che è diciamo l'organo che si occupa dell'appalto castilato che ha emesso il bando, diciamo di solito è il preludio per il gioco di scatole cinesi su svendita, proprietà varie ed eventuali. Non è il primo pezzo di città su cui l'amministrazione si comporta così. Abbiamo parlato in apertura, andremo ad approfondire dopo, della Cavallerizza. La Cavallerizza per esempio è uno degli esempi più lampanti di questo passaggio tra comune e demanio, di proprietà, cessioni varie ed eventuali, per cui poi alla fine non si sa bene di chi è, non si sa a chi bisogna render conto, non si sa dove si devono prendere i soldi per mantenere in piedi lo stabile varie ed eventuali. Sì, tra l'altro leggevo adesso che questa SRL Nomisma Yard, che appunto è stata individuata dal comune come responsabile per far avviare il progetto, ha già in gestione altri 10 immobili pubblici di Torino che le sono appunto stati affidati per essere valorizzati, quindi appunto anche in questo caso ritorna la politica di svendita del patrimonio pubblico da parte dell'amministrazione comunale. E appunto nell'articolo non si parla di un investimento da parte dell'università rispetto a questo spazio, ma appunto di fare un bando e trovare qualcun investitore interessato a finanziare questa operazione, che appunto se si trovasse non sarà certamente disinteressato. Comunque saremo un po' a vedere quello che succede. Questo per dare così un aggiornamento su quel che si muove a Torino. Adesso vi lasciamo ancora un po' di musica, poi facciamo il primo collegamento da Roma. Around me, I tell them people what me need some privacy. Don't you know I am the man that come up positivity, never negativity, cause we keep aching the way we do. My name is Will, I am from DDP. Like I be moving, but when we be jamming like Marty. If I'm technical with my rhymes, let me know now. I shake it all around, niggas know how we be throwing down. Too much looking, we be ditching y'all like cooking. Hundreds wanna get up on me like cookie sticking. They call me on my telly, talk about mushy mushy. They pulling on my body, feeling on my tushy tushy. Too much looking, looking, too much watching, watching y'all. They looking, looking, looking, and they watching, uh-uh. And don't you know I need some privacy? That's who we don't want, we need some privacy. Cause the black eye is coming with a mighty, mighty deal. I'm delivering you around me cause my mama told me so. I'm a dude with my mama saying rock, gotta y'all. Mama saying, mama sign, mama, my new star. Too much sticky and weak, my last cookie, red taste it. Living like, they taste it. Licking on your finger and your... E intanto riceviamo e commentiamo, ricordiamo i contatti prima di commentare, al 346-6673-263 potete scriverci e per quanto riguarda il fisso 011-2495-669. Beh, un altro ascoltatore ci scrive, evidentemente qualche imprenditore amico è a corto di cantieri e l'amministrazione provvede a rifocillare non senza ritorni magari. Beh, assolutamente sì, siamo d'accordo con questa lettura di cos'è che fa muovere i cantieri in città e non solo. Too much watching, watching, yeah. They looking, looking, looking, and they watching, watching, yeah. And you know I need some privacy. Go play somewhere else, we need some privacy. Open the bottle, killing the business showbiz. We be passing the key from the city and positive. What it is, this what is a lie, so here it is. Should be rolling through the air with a test and a quiz. See your hands, say damn it, what it is. What to be insane with other Peabody kids. You be nodding your head back and forth like this. If you're feeling my mood, then your mind is in bliss. So put your hands together now, we're ready to bounce. Got the whole world waiting for this to be announced. No indication, just satisfaction by the ounce. You can either jump up and boom or just lounge. 11.24, iniziamo allora con i primi approfondimenti per la puntata di quest'oggi. Come annunciavamo in apertura, andiamo a fare un collegamento da Roma. Abbiamo questi microfoni Filippo del liceo Mamiani, che intanto salutiamo e ringraziamo per essere con noi. Grazie mille, ciao. Ecco, come dicevamo prima, questa mattina appunto il sindaco Marino era atteso nella vostra scuola per credo una conferenza. Voi vi eravate già organizzati nei giorni precedenti per contestarlo. So che assieme a voi c'erano anche i movimenti di lotta per la casa. Ti chiederei un po' di raccontarci com'è andata la mattinata. Allora, noi avevamo progettato un'assemblea all'apertura di scuola per impedire a Marino di venire a scuola nostra, per fare ancora una volta la bella figura in un teatro che ormai è quello che è diventato il nostro liceo. Purtroppo ci è stato impedito tanto dai professori, la preside, sono arrivate anche delle parti della Digos. Quindi abbiamo lanciato un'assemblea per la ricreazione. Marino è venuto e davanti alla scuola è iniziato un presidio da parte degli occupanti della casa. Come ci eravamo prospettati, la conferenza e Marino non hanno parlato delle vere istanze, che secondo noi sono fondamentali, ha parlato di cose futili e non riguardanti le vere problematiche di Roma. A quel punto noi abbiamo cominciato durante la ricreazione un'assemblea. Abbiamo parlato del perché noi lo boicottavamo, perché noi riteniamo che il lavoro che stia facendo lui sia improprio, perché abbiamo una città con moltissime problematiche che lui non sta risolvendo. Ormai un anno dalla sua elezione non è riuscito a portare avanti nessuno, le sue promesse non le ha mantenute, non ha neanche risolto quelle istanze che erano per noi vitali. L'unica cosa che sono riusciti a fare è questo piano Salva Roma, che svende i servizi pubblici per salvare la finanza di Roma, una finanza che è ormai al crollo. Abbiamo anche ricordato che i professori nei giorni scorsi ci hanno minacciato per questa conferenza, arrivando anche ad arrivare alla bocciatura, alla sospensione di alcuni di noi se avessimo fatto delle azioni. A quel punto abbiamo concluso la giornata, cioè l'assemblea, parlando invece di un altro scandalo avvenuto nel liceo romano, che è il Virgilio, dove hanno messo delle telecamere nascoste per riprendere dei ragazzi che spacciavano, e sono stati denunciati 6 compagni, 2 minorenni e 4 maggiorenni, e questa è stata la giornata di oggi. Bene. Anzi, bene non esattamente, diciamo che non è la prima volta che sentiamo casi in cui il corpo docente, invece di tutelare la capacità di pensiero critico e comunque la possibilità di espressione del proprio dissenso degli studenti, consegna gli allievi nelle mani della polizia, piuttosto che usa il proprio potere per dissuaderli dal fare qualunque cosa che non sia previsto dalla loro autorità. Quindi diciamo siamo un po' è un po' agghiacciante, perché il rapporto di fiducia poi tra studenti e insegnanti poi non può assolutamente sussistere. Però appunto vediamo che comunque siete andati avanti, ma avete intenzione di rilanciare su un altro appuntamento? Come va avanti la giornata? La giornata probabilmente andrà avanti con noi che faremo interventi all'interno di quell'assemblea, andando a chiedere a Marino di parlare delle vere problematiche, di smettere di parlare di cose futili che noi non riteniamo vitali per questa scuola, ma per questa città. Tuttavia sappiamo da altre esperienze che questo non avverrà. Il Mamini è solo teatro di ospiti come la Boldrini, Fini e Zingaretti, e nessuno di questi ha realmente voluto parlare delle problematiche, perché sapevano che nel parlare avrebbero sicuramente sbagliato, perché sanno che la colpa è loro e che tutte le domande che noi poniamo sono più che giuste. A queste domande loro non hanno ovviamente risposta, quindi sì. Purtroppo non si prospetta una giornata molto facile per noi e neanche molto positiva, però siamo abbastanza felici di comandata, perché le premesse non erano delle migliori, anzi dopo aver subito quei ricatti ci eravamo profondamente sconfortati. Eh beh sì, insomma, è importante che comunque siate riusciti a farvi sentire. Tra l'altro il sindaco Marino, insomma, negli ultimi mesi in una serie di occasioni ha dimostrato anche un po' di voler giocare un po' allo scaricabarile. L'abbiamo visto ad esempio con l'occupazione che c'era stato dopo lo sgombero della Montagnola, ma penso anche tutta la vicenda di Via delle Acace, dell'ex scuola Erz, in cui insomma prima si fa intervenire la polizia a fare il lavoro sporco e poi dopo Marino casca dal pero dicendo che non ne sa nulla, che davvero non conta nulla in quella città, oppure sembra davvero che un po' voglia fare poi quello che arriva a mediare successivamente, quando il lavoro sporco è già stato praticamente ultimato, e cerca un po' di, appunto, di ripulirsi la faccia con queste cose qua. No, questo noi lo sappiamo, infatti l'avevamo previsto e non ci aspettiamo niente di che da una persona del genere, che anche durante, appunto, come dicevi, degli sgomberi ha sempre cercato di dare la colpa ad altre persone, tanto al questore Pecoraro come anche al prefetto Pecoraro, come al governo, sempre evadendo le sue vere colpe. Va bene Filippo, noi ti ringraziamo, ti lasciamo tornare, insomma, questa impegnativa mattinata alle elezioni e all'assemblea, e, insomma, grazie per il collegamento. Se ci fossero aggiornamenti ovviamente non esitate a ricontattarci, li daremo volentieri anche da questi microfoni. Per ora, insomma, bocca al lupo per tutto e buona giornata. D'accordo, grazie mille a voi, anzi. Ciao, ciao. Un saluto. Ciao. Ciao. Allora, questo per quanto riguarda Roma. Stiamo a vedere appunto se nelle prossime ore, in seguito all'assemblea tra gli studenti, si muoverà ancora qualcosina. Rimaniamo appunto con le orecchie aperte. Nel frattempo vi lasciamo un po' di musica, ci prepariamo a passare ad altri argomenti. Occhi sempre aperti, occhiali disarmati, occhi meno certi per chi vive per quei pochi stati. Scrivo in camicia col golfino e se mi guardi da vicino, mentre mi autostimo l'innocenza di un bambino e quel pudore di chi dice forse non oso, ma non per questo non sono pericoloso. Proprio per questo corro come dovizioso, m'hanno preso per lo scatto in produzione difettoso. Che sciocchi, se guardi in alto troppo tardi, parse girati la merda, adesso scende giù a fiocchi. In altre parole ribadisco il concetto che non fotti, che non tocchi, che ti scotti, non ti sposti, tu ti afflosci, ciò si mostri. Vai tranquillo, resti in piedi, non ti scomodare, e vengo con la mia frase, non ti preoccupare. Merda, hai visto quanto cazzo è messa male? Cioè nonostante riesco ancora a scopare, è vero, ho messo su qualche chilo, dato vita a un mio stilo, suonato un paio di volte postino, chiedi in giro, mi conosce uno su 10, ma ogni volta che rocco è San Siro, guajiro. Gli ultimi 3 anni timori e incertezze, illusioni e sentenze, volponi e tristezze. Se non ho mai chiuso i cerchi più importanti, prima devo far quadrare tutto e mi servono contanti. Ultimamente guardo molto poco quel che fanno gli altri, mettersi in gioco costa un botto e non lo fanno in tanti. Non si va avanti di credo di rimpianti, unica opzione che ho a disposizione è droppare diamanti. E al 346-667-3263 ci segnalano che Fratelli d'Italia è presente con un banchetto al mercato di Corso del Sebastopoli, ovviamente immancabili due pattuglie di polizia che vegliano sulla situazione. Comunque, se qualcuno fosse nei paraggi, invitiamo ad andare a portargli il saluto che si meritano. Ribattategli il banchetto, soprattutto alla luce del fatto che abbiamo scoperto che la figlia del PM Rinaudo, tanto solerte nei confronti dei Notav, è candidata proprio tra le liste di Fratelli d'Italia. Quindi se vi mancasse la motivazione per andare a contestarli, vi diamo un motivo in più. Male, io li mando al creatore senza distinzione, non rimangio parole, mi godo la reazione, un'idea non è niente sensazione, tanta carne al fuoco da sfamare una nazione, tu cosa te ne fai di tutto quello stile, di tutto quel freestyle se non hai niente da dire, per quanto puoi parlare ancora di caps and streets, kids or chips, bags of weed, parrucchi, beats, mezzi, tricks per kids, io porto cronache dell'underground, feel with Easy, sei. E niente, andando avanti con un paio di aggiornamenti dal territorio romano, innanzitutto aggiungiamo una piccola, un piccolo pezzo a quello che diceva il compagno del Mamiani, ovvero che il comune di Roma è agli estremi, diciamo, per essere commissariabile dal 2006, se non sbagliamo, e va avanti a decreto salva Roma da allora, quindi diciamo per avvalorare un po' quella che poi è la lettura sulla continuità di quelle che sono le politiche sul territorio. E poi abbiamo anche una buona notizia. Sì, ieri si è tenuto il tribunale del riesame per Matteo, Nico, Simon e Ugo, che erano i quattro ragazzi ancora detenuti agli arresti domiciliari dopo la giornata del 12 aprile. Erano già stati scarcerati dal carcere dopo che il GIP aveva valutato che non c'erano le condizioni appunto per tenerli rinchiusi lì, per quanto il PM Eugenio Albamonte, che tra l'altro è lo stesso che aveva coordinato le indagini che avevano poi portato agli arresti per la giornata del 31 ottobre sempre a Roma, aveva chiesto che per due di loro appunto fosse mantenuto l'arresto in carcere. Erano stati poi trasferiti ai domiciliari, dove erano sottoposti a restrizioni di ogni tipo, quindi visite, comunicazioni telefoniche via internet. Il tribunale del riesame di ieri invece ha smentito completamente le tesi dell'accusa, dicendo che non c'era motivo di continuare a sottoporli a misure cautelari, e quindi li ha liberati e adesso non sono più sottoposti ad alcun tipo di restrizione, quindi insomma ci siamo svegliati con una buona notizia. Tra l'altro proprio ieri, in contemporanea all'udienza, c'è stato un partecipato presidio sotto il tribunale, quindi insomma una buona notizia per quanto riguarda Roma. E un ultimo aggiornamento: il lunedì prossimo, il 12 maggio, ci sarà una manifestazione cittadina. Diciamo, la chiamata è Liberiamo Roma da divieti, rendita e precarietà. Ovviamente è un appuntamento che segna la continuità con quelle che sono state le grandi giornate del 19 ottobre e del 12 aprile, ma che anche appunto interviene su quella che è stata poi la risposta della controparte. Come abbiamo appena visto, appunto abbiamo avuto quattro compagni fino adesso arrestati per il 12, sappiamo che dopo il 19 c'è stato il 31. Partecipare al 31 è stato già solertemente punito da il solito magistrato di turno, perché a quanto pare ognuno ha la propria la battagliucola personale da portare avanti dall'alto della toga. E quindi niente, il 12 sicuramente sarà un appuntamento partecipato, perché le piazze che l'hanno preceduto, ma soprattutto il percorso che lo anima, è un percorso sentito sul territorio, che continua ad andare avanti e a crescere, e speriamo di avere una bellissima giornata di lotta da commentare il giorno dopo, nella prossima puntata di Parole Ribelli. Ora andiamo avanti con un po' di musica e passiamo oltre. Dilemma et rêve, personne te présente ma fille. Ça rappe depuis les premières heures, microphone, branché à vie. Ça rappe dans tous les coins, frappant du rapier. Troisième génération d'MC arrive déjà la quatrième. Identité martienne, ni New York, ni Atlanta. Nous on reste fidèles à nous-mêmes, on n'attend pas, nous on s'en bat. On garde l'honneur des gens d'en bas, énervés ou nonchalants. Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais nous jalons. Marseille, Marseille, a toujours fait vivre la France. Depuis 20 ans, tous les cas, on rappe même avec l'accent. J'en place une pour les absents, puis une autre. Pour nous danser, ton chien, toi, mais ferme-la et colle ta tête au temps. C'est nous, on rappe avec des principes. La même ton cœur avec des principes, et j'insiste à danser. E intanto al 346-6673-263 ci arriva un messaggio un po' sibillino. Marrone Maroni, che sia un presagio? Allora, non abbiamo esattamente capito cosa intende questo messaggio, chiediamo all'ascoltatore di dirci di più, perché vogliamo sapere tutto se è un presagio. Ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, ma, sei, Marseille a sauté dans les arcs, mon vol un peu trop spatial. Y'a ceux qui rêvent pour ceux qui partent, nous c'est du faisceau spatial. C'est notre histoire qui parle d'elle-même, c'est honnête. Sans vouloir faire du fric pour faire, c'est foutu dans quelle merde. J'ai pas l'envoyé pêle-mêle, je sens cela comme martial. Et même si cherche la forme, la vie de rêve, le jeu du bassin. En face d'Alger, Gaza, je sais que ceux qui couvrent ignorent. Trafic au western ignore, miracle western ignore. Rien à prouver à personne, non juste répéter les fous. Tous ceux qui viennent pour déguler ne viennent pas répéter les fous, les coups. Nous trouvons vert, qu'on se reste jusqu'à pouvoir. Je vous mène le voyou, on du respect et de la pouvoir. Tous ceux qui portent avec les trônes, ne se portent avec les mots. Je traite pas avec les fous, avec les torts, avec les faux. Je vous chargeur, parfumé et majeur, marseillais et majeur. Je sais qui savent primer un étoile majeur. Tu verras pas venir le coup d'éclat. Le père du rat de Marc, c'est un éclat. Le rat qui tue des ténors, si le coup est des ténors. Dans notre vie, là c'est bon, car c'est l'or. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Tu verras du rat du mal, que t'es l'œil. Si le rat est t'es l'œil, un bras. Dans notre vie, car c'est l'or, car c'est l'or. Tu peux pas faire cette vie rebelle, pour la vie dans des cris de lèvres. À l'heure où ceux qui tous écrivent se taisent. Pour ceux qui maîtrisent le trait, se disent ce texte. À la ville à part, c'était marginal, mis à part. C'est de la ruse, elle est la capitale, ma vie. Sous la haine au nord, ma tour en forme de phéromone. Rien comme le phérodrome, et beaucoup plus ancienne que Rome. C'est justement d'où vient la dimension identitaire. De l'indépendance vécue à travers quelques millénaires. Une longue histoire d'immigration, un autre œil sur l'horizon. Subit sa intimidation, orgueil et trahison à l'époque militaire. Où la sphère des rois couronne, elle a toujours levé un doigt au péril et au courant. En ce moment, ça part en couille, ça part en bouille dans la sang. Comme partout, ça tartonne. Pour de la bande et tout pour les gros trucs, tu reviens pour le mystère. La capitale de la rue, tu l'as fait pour 2013. Tu verras pas venir le coup d'éclat. Les poils seront pour moi. Merci à qui sera du fond des ténors. Si le fond des ténors, un, trois. Ça me faut dire, j'ai fait trop, car c'est l'or. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Tu verras du fond des ténors. Si le fond des ténors, un, trois. Ça me faut dire, car c'est l'or. Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille, Marseille. Personale. Io non sono carne da campagna elettorale. E parli bene ti conviene, cico, non ti affronto più. Mi dici che sei nuovo ma sei sempre tu. E allora levami le mani dagli occhi, santi Dio, sono sempre io. Anche se scrivo e sto nel mio, c'è una cosa che so che non ce n'è. Stare nel tracciato non funziona più per me. E una soluzione deve esserci anche qui. Cerco la parola chiave insieme a Terendi. Cani sciolti sotto il sole, quando fuori piove. Quando tutto è fermo c'è qualcuno che si muove. Sono il cane sciolto, lo straniero della mia nazione. E fuori dal recinto resta la mia posizione. Cani nella strada, nella città. E tutto sembra uguale, ma non torna a come va. C'è sempre un motivo per tirarli su. Ma i cani nella strada sono sempre di più. Cani nelle strade, nella città. Escono fuori dal gregge, escono fuori come schegge. E cico puoi giurarci quando corresco fuori. Perché devo spontare i tempi duri. Seguo la mia vita quotidiana di merda che ci cade attorno. E i bambini sono stati contagiati, nati patinati, figli ingrati. Ora, dai un'occhiata al mio libro di storia, un paio di episodi che ho imparato a memoria. Diretto un buon motivo e non puoi più tirarci giù, tocca che chiami le divise blu. Per darci addosso non serve che un pretesto, hanno la divisa, il manganello e tutto il re. E non importa la domanda che un baraba mi fa, perché se gli rispondi in ogni caso non gli va. Comincia a dare in testa quando picchia picchia duro, vuole far cantare Forza Italia allo straniero. Hanno la faccia come il culo e loro un trucco, vecchio all'occhio quando sparano nel buio. Dico non ce n'è, non puoi beccare i cani shot. Noi parliamo piano mentre ci muoviamo svegli. C'è una nazione in fiamme tutto intorno a me. Ci combatti la cosa sulla traccia qui chi c'è. La fila e la fila in compagnia delle sirene. Non si viene, ho sangue misto nelle vene. Muovo sulla traccia da una storia pesa. Io con i miei fratelli per legittima difesa. Siamo male nella strada, nella città. Tutto sembra uguale ma qualcosa non va. Mi sembra un motivo per tirarli su. Allora, il nostro ascoltatore o ascoltatrice ci ha mandato delucidazioni rispetto all'SMS di prima. Ci scrive che da semplice colore, ovvero marrone, diventi un coglione marone, dialettica o presagio, quindi si chiude di nuovo in modo un po' interrogativo, però insomma ci ha dato spiegazioni, quindi ringraziamo e niente, andiamo avanti con la puntata. Spunti degni dell'oracolo di Delfi da ascoltatrici e ascoltatori di Radio Blackout, bene, ci piace in questa mattinata uggiosa. E andiamo avanti con un po' di notizie. Arriva a proda nella scatola magica una nuova trasmissione, anno 1, Giulia Innocenzi e i giovani contro i politici. Diciamo che in quanto giovani non possiamo esimerci dal constatare che non è proprio il salotto televisivo il luogo in cui ci piace andare a dire ai politici che cosa pensiamo. E apprezziamo, magari, diciamo, non vogliamo attribuire cattiva fede a questi 24 giovani che parteciperanno a questa trasmissione faccia a faccia sull'attualità. Però purtroppo l'efficacia di questo tipo di cose abbiamo sempre visto dove va, sono teatrini e non ce n'è. E tra l'altro, parlando invece di cose insomma un po' più reali e concrete, abbiamo già detto più volte anche a questi microfoni che per l'11 luglio è stato annunciato a Torino il vertice europeo sull'occupazione giovanile, che sarà presieduto da Renzi e dai primi ministri europei. È partita insomma in queste settimane, in continuità anche con le mobilitazioni degli ultimi mesi, insomma le prime tappe di avvicinamento a questo vertice. Per adesso l'appuntamento che possiamo dare, quello del 31 maggio per le ore 14 a Palazzo Nuovo, quindi per sabato 31 ci sarà un'assemblea nazionale appunto nella sede dell'Università di Via Sant'Ottavio, in cui inizierà a discutere con tutte le realtà che hanno interesse insomma a inserirsi in questo percorso verso l'11 luglio, di come di quale questione andare a porre in quella giornata, rovesciando completamente appunto tutta quella che la retorica di questi vertici europei. Insomma, anche significativo che sia stata scelta la città di Torino come sede dell'evento. Appunto presentata come esempio di sorpassamento del modello della città fabbrica, che oggi invece è dominato dal metodo dell'indebitamento, a cui corrisponde ovviamente la riduzione progressiva di servizi welfare, di impoverimento di quindi ampie fasce di popolazione, e niente, quindi ci sarà insomma molto da discutere. Lanciamo fin da ora questo appuntamento del 31 maggio, iniziate a segnarlo in agenda, poi sicuramente nelle prossime settimane andremo ad aggiungere via via carne al fuoco rispetto a questa scadenza. Sono sandalo, un suono ritardato sul ritmo, un po' scordato l'orecchio, avvelenato, sblocco tutto in senso pratico, ero un falina legato con buco, concordato il centro, più sfondato di clima, più pneumatico, il mamme che uomo che sale, cuscendo in volo, che pare non abbia ruolo, ma paio si mangi solo, faccio fan, pega suono, che sale col microfono, ti appare velocinoso, non pare che suoni mono, io crasso gli nodo, che sale, sale nuovo, che pare non ti dia modo di stare, fermo il posto, che inutili produzioni, un punto, che palustroni, un cacchio, un digitone, che slaccia in campo. Campioni, bevo acqua e bleu, liquidi in masse. Poi sciolgo le matate di un liquidi, lo sparo, lo spesso e due MC carcasse. Dile di note grasse dalle nasse che io lascio. La fatti, la stocca, la pili che dalla fonda qui bile. Rimane rossa sulle bordi, le mio d'acero. Tardini sempre in prima, fresnesco e poi non trova il gesto. Segue l'orma, sfumo tempi dal tuo macero. Il mamme che è un uomo che sale, poi scende in volo. Che pare non abbia ruolo, ma paio si mangi suolo. Faccio il fan, pega suono, che sale col microfono. Ti appare bello sinuoso, non pare che suoni mono. Lo caccio gli nodo che sale, sale nuovo che pare, non ti dia modo di stare, fermo riposo, tieni tu il produttore un punto, che palustrone un cacchio, un digitone, rimbomba il canonio. Gioca sano yo, lacche dure come mattoni. Gioca sano yo, lacche dure come mattoni. Gioca sano yo, lacche dure come mattoni, come mattoni. Non balli, fai impasto gli sciacalli, fatti calli, pochi sballi, da pappa molli, pochi galli, un to' di pappagalli, anche polli, piatti come francobolli, di qualunque credo, Wacken si succido, posso bere jeans, macchino tazzido, nella jam, faccio slam coi veterani, oggi guerra, domani farsi come in Tillimani, fatti mani, I move your body, questo flow banga 10.000 raudi, applaudi sprausi, dimmi che ganja usi, albanese ammoniacata, sicuro che ne abusi, ci vuole stile, ma tiri come i paninari, per suonare bene non ci vuole Stradivari, strani svari, in testa i rap militari, guerra stellari, in testa questi luminari, troppe patatine, in voga i bambascioni, mille cloni, stereotipici come il cartone, il necco, ci saranno sì che figlio dei cannoni, mica il puppet colorato coi pantoni, troppe pannoloni, i baggy pantaloni, manco i frigattoni, a suoni scopazzoni, nel quartiere, coi mattacchioni, con gli sboroni, fatte notte dure, come mattoni, gioca sano yo, notte dure, come mattoni, gioca sano yo, notte dure, come mattoni, gioca sano yo, notte dure, come mattoni, come mattoni. Steppa qui della clique che mantieni rispetto. Occhi su se ci sei, occhi su se sei ceppo. Stai con ma, ho contro di me. Sai con me che sto bimbo più cattivo di te. Non è a quanti snack, mangi o quanti mac. Qui a quanti calci, calcio, sec, sec. Questo via, fa fu con te che catch. Come nelle jam qua, faccio il mio match. Pure con la lama, bimbo, si fa lo scratch. Non ti conosco, stessa matto, infogliato. Non hai campanato, lo stile del soldato è impostato in strada, da quando sono nato, in competizione con la mala mara, quella che spara, strada vera, quella che impera, di sera, dove il troppo si spara una pera nella vera, io iera, in scena, spingo la bolla, serena, no non è una molla, ho pipa di la colla, comunque zo le palle se le scrolla, poiché son chili buoni, zero veleni, tocca fumineri, non vi manda i cimiteri, magari si carabinieri, veterano, targhetta gioca sano, comunque sieri, schedere tano claro, veterano, targhetta gioca sano, comunque sieri, schedere tano claro, gioca sano yo, notte dure come mattoni, gioca sano yo, notte dure come mattoni, gioca sano yo, notte dure come mattoni, come mattoni, come mattoni. Yeah. seguo i distinti, man. Yeah, sono indistinti, yeah. Ah, yeah, ah, yeah. No, non sono più antimateria, man. Yeah, yeah. Tutti primordiali. L'istinto qua appare più vero che primordiale. Progettiamo operazioni di coscienza razionale. Il nucleo sta a lottare in mezzo a queste strade. Ti fotto con il darwinismo sociale. Chi lotta per chi contraddice il tuo obiettivo, favorendo la ragione cercando di svilupparla. Stoppa chi blocca l'uscita al tuo respiro, girando la medaglia e spezzando la propaganda. Emergenza, c'è un primario in sala. Prima che primi è già aggressivo, gesto istintivo di sopravvivenza. Si distingue il nucleo, assetto, savana in una scala dove l'istinto mangia per primo. Di un primo in primis, in prima fila coi primitivi, privi di diversivi contro geni da scalattiti. Con la tribù, un tributo con gli attributi ai propri simili. Con danze tribali, mangia carnivori. Non so cos'è, ma adesso prende il meccanismo, si riattiva. Dico quanto il mondo mentre volta a spalla alla rovina. Questo tempo, dunque antimateria resta al centro. La nostra storia è scritta su una tavola di legno. Sto battendo per riagganciarmi in testa un altro mento. Del sangue la pressione crea visioni da spavento. Per questo faccio ciò che è giusto, lotta ad armi pari. Vali tanto affronta il mondo con gli istinti primordiali. Tra capanne schiacciate dai Tyrannosaurus Rex. Scappate caccia grossa quando batte il mio mic check. Come in Jurassic Park, capo dai Velociraptor tra sterfaglie. Ascoltando Jurassic 5 e Nasty Nasty in culo a Darwin. Troppi evoluti senza fotte e palle. Quindi sto dalla parte del mammut. Infizza il bracconiere sui vestiti del cadavere. Si pulisce soddisfatto il suo sangue dalle zanne. Stiamo al piede sul cemento. Ore 11:56 sulle frequenze di Radio Blackout. Andiamo avanti con l'intervista a Paolo, un ragazzo del terzo piano, la biblioteca del terzo piano di Palazzo Nuovo. Ciao Paolo, ci senti? Ciao, sì, vi sento. Allora, volevamo parlare un po' di questa settimana intitolata Margini sull'editoria che si terrà a Palazzo Nuovo, al terzo piano. E dici un po' quando e come si svilupperà. Allora, innanzitutto vi ringraziamo per la possibilità di descrivere un po' quello che succederà a Palazzo Nuovo la prossima settimana. Inizierei allora col dire che cos'è Margini. Margini è il titolo che abbiamo scelto per tutta quella serie di eventi che avranno luogo a partire da lunedì 12 maggio nell'atrio di Palazzo Nuovo. Come collettivo del terzo piano abbiamo deciso di creare questa iniziativa della durata di una settimana che in qualche maniera potesse valorizzare i lavori dell'editoria indipendente, forse molto spesso trascurati. Ormai da qualche tempo, come la biblioteca autogestita, ha portato avanti una battaglia contro il caro libri e abbiamo deciso di adottare la pratica delle fotocopie, come forse molti sapranno, per rivendicare un sapere che potesse essere libero e accessibile a tutti, appunto contro le speculazioni che grandi gruppi editoriali fanno sulle nostre tasche. Ovviamente le accuse non sono tardate ad arrivare, ma il consenso studentesco è stato fortissimo, al punto che abbiamo deciso di proseguire insomma su questa via, creando così Margini. Come forse molti avranno notato, Margini cade proprio con la chiusura del Salone del Libro di Torino. Scelta questa che diciamo non è stata frutto di una banale casualità. Abbiamo intenzionalmente voluto creare una sorta di contrapposizione. Se da una parte abbiamo avuto la festa ufficiale con le grandi case editrici e i suoi ospiti prestigiosi, dall'altra parte ci siamo noi, cioè gli studenti che sempre più siamo costretti a vivere ai margini della nostra università. Bene, noi nella settimana tra il 12 maggio e il 17 abbiamo intenzione di riempire Palazzo Nuovo con quella cultura che pensiamo debba essere accessibile a tutti, una cultura che sia viva e conflittuale. Partiamo quindi lunedì 12 maggio a mezzogiorno con il pranzo sociale, sempre in atrio a Palazzo Nuovo. E nell'arco della settimana presenteremo assieme agli autori di tanti libri delle case editrici indipendenti come Briganti e Migranti di Giorgio Martinico, La quadratura del cerchio di Vega Roz, Sorella Outsider di Audre Lorde e il libro di Dove sono i nostri ad opera del collettivo di Clash City Workers. Ci saranno apericene una reading musicale in ricordo di Gabriel García Márquez, un dibattito su cosa sia appunto l'editoria indipendente con alcune delle case editrici che hanno deciso di partecipare alla nostra iniziativa, un'interessantissima mostra che racconterà un po' Genova sui muri. Abbiamo anche deciso di ritagliare a questo fine uno spazio per esporre la tesi di coloro, degli studenti che si sono laureati, perché diciamo queste non vengano lasciate tristemente nei cassetti per un lavoro fine a se stesso, ma vengano condivise e valorizzate assieme a tutti gli altri. Giovedì 15, ricordo, a partire dalle 21 ci sarà invece la festa della biblioteca autogestita con apericena, a seguire musica e la festa. Comunque sia, invito tutti quanti a leggere il programma dettagliato con orario ed evento sulla pagina Facebook Terzo Piano Biblioteca Autogestita. Ricordo ancora che tra il 12 e il 14 maggio saranno presenti nell'atrio di Palazzo Nuovo i banchetti delle case editrici indipendenti con i relativi stand, e tutti i giorni sarà attivo l'archivio digitale DataStorm, da cui sarà possibile scaricare i libri di testo e fotocopiarli a prezzi molto bassi. Quindi diciamo vi aspettiamo tutti numerosi e numerose. Sei stato chiarissimo nell'esposizione del programma. Speriamo, invitiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a partecipare all'iniziativa. Assolutamente, va bene. Grazie mille Paolo. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao a tutti. Saluto, a presto. Ciao, un saluto, ciao. Allora, altri appuntamenti da segnarvi in agenda, più tardi andremo a ricordare anche quelli che ci saranno qua nella sede di Radio Blackout, che in un certo senso sono anche in continuità con quanto ci raccontava Paolo, perché in questi giorni ci sarà anche alla fine della fiera un'iniziativa che i compagni del Gabri organizzano nella seconda edizione, che appunto propone come fanno i ragazzi del Terzo Piano forme di cultura diverse che siano slegate dall'idea del profitto del libro come merce, quindi più tardi andremo a ricordarveli. Nel frattempo vi lasciamo un po' di musica, poi ci avviamo verso l'ultima parte della puntata. Mi dicono che sono già nei semi, i bambini scrivono nei temi ciò che temi, dalle elementari, dolci merendine, inchiostre amari, le concetti care, care impari, che per loro povere è sinonimo di nero, la melanina aumenterebbe inversamente al dinero, spero il pensiero di come sono messi, figli del progresso, dei progressi, gli stessi, portano fiori al passi a Bob Dylan, magari ti farò milanesi, e già, ma la punta di diamanti se non sbaglierà, a fianco al poster di Gotter, a quello della lettomale che ci fa, se il significato one love non si sa, è la strana che spinge, ma nella città che mi sono dipinge solo la bussola nord è un tour, è il primo cittadino che sta proprio, è la strana che spinge, ma nella città che mi sono dipinge solo la bussola nord è un tour, è il primo cittadino che sta proprio, so che da sempre tu guardi in qua, so che avendo caldo sui tuoi figli, proteggiti dal freddo e dagli artigli, dei nemici, dei sacrifici mentre gli edifici grigi come la tristezza che li ascolti ai loro volti. E ci arriva notizia addirittura di ascolti internazionali per Parole Ribelli quest'oggi. Mandiamo un saluto a Simolfo che è in ascolto dal Cairo e che ci manda un saluto. Dai Simo! Aspetto quanto caio al cospetto dell'immenso mondo a fare un formicaio, un punto lo haio, l'oceano una pozzanghera, nazionalismi ci si discorsi a bambera, non c'è confine che si possa tracciare, di chi diffidare si può elencare, tipo Romo, Remo, Caino, Abele, coinquilini per la torre di Babele, questo best seller scritto nelle stelle, il paradiso ai poveri, soldi ed occhiele, la più grana che spinge, ma nella città che mi suono di spinge, solo la bussola nord è un tour, è il primo cittadino che sta proprio, quella filigrana che spinge, ma nella città che il suono ti spinge, solo la bussola nord è un tour, è il primo cittadino che sta proprio. a palpire sul cemento, mi cimento sulla piazza col branco, bronco, Donizetto stronzo, è natura vengo bongo, la mantengo, fandango, sul fango, vengo banco, lo faccio mai stanco, palata di Italy e di tunisini, di zingari e di marocchini, soldatini, facciamo benetton, senza bonton, manca la Giamaica di Bugi Guanton, pronto al lancio del gancio, punta telefonica, con fare da maggio. Karim, con la mascella con i punti, dopo casino in discoteca dalla pula spinti, io 6 su 10 con la cicatrice, ieri ed anni fa, ma stessa matrice, i soldi con i numeri in calcolatrice, buste di coca chiuse con la puntatrice, sto cassando il vede di Benzano, da bollo è solo street rap italiano Johnny Jab. Schivo la guerriglia, la mia carne non sarà poltiglia, ma vivo queste strade fino all'ultima bottiglia. Emilia su miglia, io non mi fermo mai, sopravvivo peso, e com'è tu non lo sai. Dammi il mic per il check a 1-2, sono giù con Johnny Jeff, Lord Vin e Fritz fino al blu del cielo. Procedo e cedo, di questa vita gioco tutto finché non va spacelo. Dio se ci sei, benedici questi MC, Dio se ci sei, portali via da qui, dal ghetto, pochi soldi in tetto per questi bambini cresciuti troppo in fretta nel campetto, al freddo d'inverno, al caldo d'estate, restate in ronda quando mandate in onda le vostre cazzate, alzate sulle mani, danzate fino a domani, cercano tutti vie di fuga per fare mani. La strada vede tutto, nascita e lutto, chi è piega chi è distrutto, non è sto farabutto. Io ti guarda se credi di sfuggire nada agli occhi della strada. La strada vede tutto, nascita e lutto, chi è piega chi è distrutto, non è sto farabutto. Io ti guarda se credi di sfuggire nada agli occhi della strada. C'entra in quanto che sventra chi ciancia, aggancia riga fastlades che ti fanno le gangia, lancia che si sprezza a favore di chi è nella merda da una vita e fa parlare di sé. E io freestyle che stendi sto tappeto, che io ci cammino al virus, al vaccino, il basilio non me lo ordino. Gioca se ma gioca sano in occhi, gioco a giochi per pochi, diamo ad idioti metodi antifarlocchi e pidocchi. Vuole la sfiga che la sfida sia suicida, se la sfida è a miracolo bobo ossida. Per la strada grida guerra fratricida, ogni sguardo dato per sbaglio fomenta l'ira. Sopporto lo sporco, ricordo ogni porco che è insorto, che il corpo del morto è risorto. Giro senza guardie del corpo nel vicinato, sangue affiliato di cui mi sono macchiato, scricchiolano spade fra le suole e il cemento, scena anima in preda al destino dell'endovena. Confondo amore ed odio fra i palazzi sullo sfondo, come può l'inferno essere peggio di sto mondo. Ok, yo, pin, in, pochi, pochi, battiti per Rocky, swing, king contro i love, sento il gong stereofonico della sconfitta nel conflitto microfonico. Da Santiago Lima, Antigua, Tijuana, marijuana bianca, boliviana, colombiana, arriva qua alla mia clete volo, sopra pacco ho tutto bollo di controllo. E io testa questa crew che si para il culo da quei culi blu, prega pure mani tu ma non cedo, no. Tengo duro e giuro, porto avanti il mio credo, stato d'assedio e rimedio per te il mio dito medio. La strada vede tutto, nascita e lutto, chi è piede chi è distrutto, non è sto farabutto. Io ti guarda se credi di sfuggire nada agli occhi della strada. Yo. La strada vede tutto, nascita e lutto, chi è piede chi è distrutto, non è sto il farabutto. Ti guarda se credi di sfuggire nada agli occhi della strada. Lord Vinky, agli occhi della strada siete tutti imputati, la sua sentenza è inconfutabile e ognuno la sua. Yo. Lord Vinky, Fritz the Cat, Gio Castano e Fabiano, due bases, due regaz, Milano e volo dal sottosuolo. Ricordo, la strada vede tutto. Yo. tecnica. Produzioni Gramotti, CK Glano, Napoli provincia, e DJ Snatch on the party table, Napoli provincia. È una strage continua di sensi e cellule, quando stai preso dal panico pare che non pensi. La TV dei politici, ansia, ansiolitici tra le mani, assistenza agli anziani nei casi clinici. Vedo il paese rinchiuso nei tubi, case e palazzi che c'ho intorno trasformati in cubi, più scuri e profondi dei buchi, incubi di notte tra le nuvole e nubi. Nei tempi dei più schiusavano il cibo come Scooby-Doo, la storia è continuata di sate e sguardi cupi, poi visto i soldi che rubi, dai dollari e rubli, ho capito i tuoi hobby, come Robin Hood, tutti i nobili, immobili, da questo casa al mare costruite come col Playmobil, tipi goffi in fila che prendono merda in faccia, pezzi da 9000, si buttano a tuffi, credendo che sia la lira, li guarda e mi gratto i baffi, ma prima ti staccherò le cellule da testa, farò arricchire il tuo dentista, ventista, vedrai che i conti stanno tornando e sparaghista, inutile che allucchi, sei appena entrato nella lista, nera solo nel suo spazio come carta cookie, sconta la pena, guarda le tue gesta, cazzate che fanno troppo i buchi, testa ma ti resta l'euro, l'auto e la Suzuki. Ritornello, sai, avrai tutto quello che ti spetta, una tremenda vendetta dopo il lamento, aspetta, scuotere il prossimo, resterai solo per la legge dei più su terra, acqua e cielo. Sai, avrai tutto quello che ti spetta, una tremenda vendetta dopo il lamento, aspetta, scuotere il prossimo, resterai solo per la legge dei più su terra, acqua e cielo. Una ad ogni forma di garzone. E allora 12:12 sulle libere frequenze di Radio Blackout, ricordiamo ancora una volta i contatti 011 2495 669 e 346 6673 263 per scriverci. Bene, andiamo avanti con la puntata, come annunciato in apertura andiamo un po' a riprendere un discorso che avevamo già aperto, quello sull'assemblea cavallerista 14 e 45, perché questo venerdì, proprio nel cortile della Cavallerizza Reale, l'assemblea cavallerista 14 e 45 invita tutte e tutti a far vivere ancora una volta il cortile. Siamo in il complesso e lo stabile della Cavallerizza Reale. Siamo in collegamento con Andrea. Andrea, ci senti? Sì, vi sento, ciao Eddie. Allora, ciao Andre, dici un po' di questo appuntamento, ovviamente ricordandoci anche per chi se lo fosse perso che cos'è questa assemblea cavallerizza 14 e 45, che cosa vuole fare e che cosa succederà venerdì. Certo, noi assemblea cavallerizza 14 e 45 è un gruppo di cittadini che si sono trovati a condividere degli interessi comuni e a parlare di bene comune, di riappropriazione, e che si è ritrovata a considerare incredibile che uno spazio come quello della Cavallerizza Reale, che quantomeno fino a poco tempo fa veniva utilizzato seppure in parte dal Teatro Stabile, dopo una storia di 160 anni di occupazioni continue e di vita vera, è stata uno specchio di tutto quello che è passato in questa città nell'ultimo secolo quantomeno, si è improvvisamente abbandonata e lasciata a se stessa, per cui abbiamo iniziato a lavorare, a cercare di coinvolgere Torino, la Torino dei lavoratori, la Torino degli artisti, in un progetto per farla tornare a vivere da subito, per non lasciare che cada nel dimenticatoio, che l'amministrazione possa farci quello che vuole. E come nuovo ulteriore passo abbiamo deciso di dare un appuntamento fisso alla città nei cortili già aperti della Cavallerizza, in quella zona di passaggio utilizzata come parcheggio prevalentemente da chi se lo può permettere, da chi ha ancora una chiave. Abbiamo deciso ogni venerdì di fare sì che succeda qualcosa. Iniziamo questa settimana con dei laboratori di autoproduzione, con una maratona di lettura in cui chiunque voglia passare e voglia dare un pochettino la sua voce o mettere la sua musica per accompagnare potrà leggere Alice nel Paese delle Meraviglie, e poi si farà tanta musica. L'idea è quella di far vedere che almeno una volta alla settimana qualcosa nel cortile della Cavallerizza succede. ci sembra che sia l'unico modo in questo momento per far vedere a Torino che c'è qualcosa e per parlare e rendere la cittadinanza consapevole di quello che c'è in quegli spazi. Bene, allora sicuramente ci vedremo venerdì, sappiamo che come ci siamo già detti su questi microfoni, ma abbiamo anche sentito l'intervento nella piazza del primo maggio, diciamo non è la prima volta che incontriamo questa realtà che ormai è un po' che pone il problema della cavallerizza, perché a partire da quello si pone una questione un po' più larga, ovvero quella della chi amministra i territori, chi decide che cosa succede, che cosa ne è delle nostre risorse, che siano esse materiali o meno. Quindi Andrea, grazie mille, noi sicuramente rimaniamo sintonizzati perché un appuntamento fisso, un nuovo appuntamento fisso in città è sicuramente qualcosa da tenere d'occhio, soprattutto se nell'ottica della riappropriazione, come piace a noi. Quindi rimandiamo tutti e tutte alla pagina Facebook dell'Assemblea Cavallerizza 1445, in cui ci saranno aggiornamenti su quello che l'Assemblea farà e aggiornamenti sul primo venerdì della Cavallerizza. Certo, e a chiunque volesse partecipare, ogni mercoledì alle 21 l'assemblea si riunisce nel cortile della Cavallerizza. Assolutamente sì, hai fatto benissimo a dirlo, perché ovviamente come tutte le esperienze che hanno la pretesa di essere auto-organizzate dal basso, c'è bisogno di tutti e tutte. Certo. Grazie mille. Grazie mille. Buona giornata, buon lavoro ragazzi. A te, ci vediamo venerdì allora. A venerdì. Green baby, bianca crew. I'll never struggle, bitch. Yo, okay. GG, yo. Ehi, io non le ho viste tutte, le ho viste tante, al punto che non mi stupisce quasi un cazzo raccapricciante. Ho stretto mani di ogni singolo colore, credo e mia religione, cambio comunicazione tale. Adattarmi è sempre stato fondamentale, spesso e volentieri un processo che fa del male. La testa deve respirare, credimi, l'orgoglio è la prima cosa che devi accostare. Molti vivono una vita intera senza porti manco mezza volta il sacrosanto problema. Ecco per voi sì che ho un'invidia viscerale, mezzogiorno nei miei panni avrei voglia di annegare. Il mio carattere è il mio difetto più atroce, la mia voce a tempo stesso, il mio dono e la mia croce. A quanti sto sul cazzo, su cazzo e vivrò lo stesso. Fatevi un bidet di umiltà e levate la testa dal cesso. Che fare politica in questo gioco di merda, andavo a fare in culo, non ho ritornelli del cazzo tra le strozze. Stronzi, via. Ok, ok, un amico l'altro giorno mi ha detto con affanno, Nico, ci sono troppe cose che non ti vanno. Cosa dirti fratello, forse hai ragione, forse mi sono rotto il cazzo di capire le persone. Lei mi diceva sempre Nico rimarrai da solo, sorelline da una vita che lo sono. E anche questa notte il mio lettone mezzo vuoto, mi addormento con le rime in testa per il giorno dopo. Settimane con dei ritmi sostenibili, vera doppia vita, sforzi massimi, mi ritorni minimi, verbali crimini, collassi psicofisici, gli attimi critici, c'ho ancora i lividi, ma non mi elimini. Mamma guarda, vado senza mani, so che il nonno non approva e ho paura del domani. Ho fatto scelte, preso le mie decisioni, perché la realtà ti ride in faccia e schiaccia le emozioni. Chiaccia il boss, è una realtà che schiaccia la merda, non è obbligatorio, non è divertente. Sì baby, fatelo più domani. Ciao Mario. Anche per caso. Ho sovvertito il mio pensiero nei confronti di alcuni, per così dire amici, ridimensionato il concetto dei miti. Il mio percorso per niente è simile al vostro, che ridere se non sorso troppo il limite è simile a un mostro. Non sono così stronzo da dar la colpa esclusivamente al subconscio, a parte ancora io non mi conosco. Mentre i bicchieri si fanno sempre più brevi, affogo in banalità e domani ci avrò il triplo degli scleri. E a qualcuno devo sempre dire sì signore, ma quando sputo tu con me firmi la dimissione. Senza questioni la mentele ho preavvisi, adoro mettere sti pupazzetti regolarmente in crisi. Anche perché sinceramente adesso sono grande, a dirla tutta me le sono fatte due domande. E un paio d'ore fa dovevo chiamarti, stavo scrivendo due stronzate ma ho finito, ma è troppo tardi. and all I know of love is how to live without it. I'll say goodbye. E allora rispondiamo un attimo a un'ascoltatrice e barra ascoltatore che ci ha chiesto delucidazioni su che cosa succede alla cavallerizza. In breve, esiste un'assemblea cavallerizza 14:45, che è l'orario in cui a cui è fermo l'orologio della cavallerizza, che si sta prendendo a cuore, si è presa a cuore le sorti di questo stabile, a partire dall'amore, diciamo, che queste persone trovano per questo luogo, per andare avanti nel porre la questione che lo stato in cui versa il luogo stesso pone, ovvero chi decide sul territorio, di chi è la cavallerizza, come di chi sono tutti quei pezzi di città che vengono venduti senza ritegno e per batter cassa, per coprire un debito che ancora una volta gli stessi che svendono ora hanno creato. Quindi assemblea cavallerizza 14:45 nasce questo appuntamento, i venerdì della cavallerizza, e ogni venerdì accadrà, l'assemblea curerà qualcosa che accadrà nel cortile della cavallerizza reale. Nello specifico, questo venerdì si partirà alle 6 con un laboratorio di autoproduzione, andando avanti con una maratona di lettura di un testo, Alice nel Paese delle Meraviglie, per poi andare a chiudere con una serata danzante. Quindi un venerdì all'insegna della socialità e del divertimento, ma soprattutto della riappropriazione di un luogo che viene negato a tutti e tutte gli abitanti di Torino. Questa va, check it out. Per chi è costretto a nascere oggi per migliorare domani suo, per migliorare le cose. Per mio fratello Arne Piz 2011 e per Barracuda famiglia, Roma, GBZ, Barracuda, la testa retro, testa 4 indipendente. Parto domani al primo aereo a Fiumicino, esce l'ansia dal cuscino, ho cancellato la rubrica del telefonino. Parto perché ho deciso di seguire il suo consiglio, me l'ha detto pure il presidente del consiglio. Per scelta, per dignità, per fame, per lavorare, perché è rimasta l'ultima possibilità. Nella città che ti dà vita impari a crescerci, ma sai che un giorno il nostro figlio potrà nascerci. Partene in fretta all'alba, prima che un'alfa dei caramba cese beva pena canna. Vattene via dai tuoi problemi e li ritrovi tra le mura. Ci arriva un cisti che ci segnala posto di blocco della polizia all'ingresso della tangenziale per Avigliana Ovest, quindi cisti. Ma non lo riesco a fare, perché nel bene e nel male la mia terra è questa qua. Ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene. Se avessi in faccia tua maestà gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene, vattene. Ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene. Se avessi in faccia tua maestà gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato allora vattene, vattene, vattene. Pestaccio dentro 1+1=3, 21 strati della mente che mi incollano e non smollano da dentro me. Quello che c'ho sta qui, quello che so non conta più. Quando sorpasso la frontiera e perdo l'alibi, vattene via da chi, è solo amore zì. Se quello che mi porto addosso solo è chi non si, per chi non può capire, per chi non sa sentire. Dentro la testa c'è una bomba e sta scoppiando qui. Questo è un paese per vecchi, chiuse barricati dentro a feudi di specchi, con mille tasche e bici senza gli occhi. Ingannano la morte, corrompono la sorte come spettri in una giungla di falsità, dove vivendo barricati dentro la città, vivendo la metà, pensando che qualcosa un giorno cambierà, ma il tempo passa, non si ferma manco per salutare. Ho visto in faccia la realtà, mi ha detto vattene, mi ha detto qua non ha senso neanche più combattere. Chi l'ha capito al volo, ma chi si è dato subito che qui c'è un posto solo, ed è quello da subito, da schiavo messo prono. O scappi per cercare il tuo perdono, o resti a corte a lucidare il trono. Corri, uomo, corri con quel poco che ti resta. Vattene via da qui, prima che te fanno nabbia con la testa. Senza speranza nei domani, a litigasse l'osso come i cani, per far ingrassare quattro infami, quattro stronzi che aspettano che schiatti tra concorsi. venne buscati e contratti che sono ricatti. Qua non passa, non c'è soresta per nessuno, però la testa passa. Il contretto del digiuno, ma se il futuro è tutto ciò che abbiamo, a scavalcheremo il muro e andremo ancora più lontano. Faccia la realtà, io te to vattene. Se avessi faccia tua maestà, gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato, allora vattene. Vattene, vattene, ho visto in faccia la realtà, io ho detto vattene. Se avessi in faccia tua maestà, gli direi vattene. Se non sei ben raccomandato, allora vattene, vattene, vattene. Vattene, scappa, sto posto è stretto, si strappa. Tu ti consenti solo quando si strappa. Città in blackout, polvere e acciaio. Vorrei fuggire, sparire in ogni singolo dettaglio. La libertà è il loro bersaglio. Scrivo la realtà come travaglio, frega un cazzo se sbaglio. Passi fatti tra mazzi e una malattia, solo per andare via dalla periferia. Vattene dai, fra, pensavi alle Hawaii, ma non te ne vai, man. Se non a Sabaudia, col mondo nei Ray-Ban, sulle dita su un iPad. Farei di tutto per andare via d'acqua. Dopo tutti questi anni scapperei pure stanotte senza manco salutarvi. Domani un altro giorno lo so, e se me ne andrò, chissà se migliorerò. Allora 12:26 ci avviamo verso la conclusione della puntata. Come di consueto dedichiamo gli ultimi minuti di Parole Ribelli alla presentazione di alcuni appuntamenti. Partiamo da quello che sarà l'evento centrale per questa settimana, il corteo di questo sabato che partirà da Piazza Adriano per chiedere la liberazione di Chiara Claudio e Mattia Nicolò, di tutti i Notav che stanno pagando il prezzo della loro partecipazione a questo grande movimento. Tra l'altro andiamo anche a commentare brevemente una notizia di quest'oggi, di cui credo sia già stato dato conto anche durante l'info, ma insomma ne approfittiamo per mandare un saluto a Claudio, un compagno di Alessandria, che è stato raggiunto da una misura restrittiva, in particolare il divieto di dimora da tutti i comuni della Valle Scrivia, insomma tutti i comuni interessati dal passaggio del Terzo Valico, quest'opera a cui insomma migliaia di persone si stanno opponendo. Insomma il pretesto è stato dato dalla sua partecipazione a una delle tante iniziative di lotta che ci sono state nei mesi scorsi, in particolare a Novi Ligure, dove alcune delle reti che erano state messe dal COCIV, la ditta che si occupa degli espropri dei terreni e dell'apertura dei cantieri del Terzo Valico, erano state fatte cadere, così come insomma ci ha insegnato anche la lotta della Valle di Susa. In realtà Claudio viene contestato di aver rubato la macchina fotografica di uno degli operai del COCIV, un episodio assolutamente falso su cui il GIP si era già espresso, affermando che insomma, ma non c'erano motivi di ritenere che questo fosse accaduto. In realtà poi, grazie a delle ricostruzioni fantasiose congiunte di carabinieri locali e del pubblico ministero che segue l'inchiesta, questa vicenda è tornata a galla e Claudio è stato appunto raggiunto da questo provvedimento. Quindi insomma vediamo come anche contro il Terzo Valico, nel momento in cui insomma la lotta si è fatta più dura, la partecipazione popolare si è fatta sentire con tutta una serie di iniziative che ci sono state anche recentemente, anche il livello della risposta della controparte si fa più alto. Comunque mandiamo un abbraccio a Claudio e insomma rilanciamo anche sui prossimi appuntamenti della battaglia contro il Terzo Valico. Ricordiamo anche che questa non è la prima volta che con un'accusa del genere che un compagno finisce sotto l'occhio della legge. Ricordiamo quest'estate Giobbe, accusato di rapina per aver levato la macchina fotografica a un Digos. E quindi appunto il 10 sicuramente l'abbraccio più stretto sarà intorno a Chiara, Claudio, Mattia e Niccolò, ma la questione, come tanti e tante sanno, riguarda il movimento tutto. perché appunto è anche in queste piccole mosse che la controparte struttura un metodo, come noi abbiamo imparato a valorizzare e a mettere a frutto il tempo che passiamo insieme in valle e nelle lotte che portiamo avanti tutti quanti. Anche dopo anni anche la controparte sta strutturando un po' di metodo. Bene, sicuramente il metodo della controparte da 20 anni a questa parte non, scusate il gioco di parole, non fa alcuna differenza, di certo non comincerà ora, e il 10 maggio sicuramente sappiamo che la piazza griderà con forza questo messaggio, ma soprattutto diciamo, lo praticherà, lo camminerà con le migliaia di piedi che le marce Natav sono abituate a vedere. E quindi mi raccomando, tutti presenti sabato 10 maggio, ritrovo alle ore 14 in piazza Adriano, sul nostro blog qa-torino.blogspot.it trovate anche l'appello che è stato redatto dagli studenti e delle studentesse della Valle di Susa, che invitano alla partecipazione. È un appello che ha già trovato l'adesione di moltissimi collettivi sparsi in giro per l'Italia, c'è ancora tempo insomma per raggiungersi, soprattutto per partecipare. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Forza 7-8 sul beat. Ok. Io voglio una pistola, ci metto dentro tutti gli incubi che affliggono ste notti sotto le lenzuola, ci metto anche l'amore che mi scalda ora, la punto contro il sole, poi vediamo se mi scalda ancora, la punto contro Roma, la punto contro il mondo, la punto contro chi amo e contro chi odio dal profondo, per i primi lei non sparerà, ma per i secondi col proiettile andrà a fondo, io schivo i colpi da una vita e non rispondo e mi confondo, in mezzo ai troppi dubbi che mi pongo, le domande che mi faccio a cui non mi rispondo, me lo scrivo sopra un braccio tutto quello che amo al mondo. La mia pistola sparerà, quando sarà carica di me lo vorrà, lei sparerà, è già realtà, la punto sulla testa, la mia pistola è la mia musica, questa. La mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, l'odio tanto quanto è necessaria. La mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, l'odio tanto quanto è necessaria. Punta, la punta della canna sulla fronte, ritarda la mia punta con la morte, ripara la mia banda, rimanda la mia sorte, il mio futuro è scritto e fratella, la mia pistola se ne fosse, è il mio più grosso dono, e sa che se abbandono, l'avrò tradita per la vita e non avrò il perdono, ed ogni volta che spara parla per conto mio, e ogni nemico che stana lo manda contro Dio, per ogni cosa che faccio è su lei che conto, me lo scrivo sopra un braccio tutto quello che amo al mondo, serve un aiuto per l'incarico duro che assumo, non conto su nessuno, carico il suo tamburo. Sento il rumore del caricatore, lo stesso odore, stesso panico negli occhi di un uomo che muore, lo stesso suono, rumore, lei resta l'unica, la mia pistola è questa, la mia musica, la mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, odio tanto quanto è necessaria, la mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, odio tanto quanto è necessaria. La mia pistola me l'ha detto, che il mondo ne va stretto e tu tieni sempre un dito sul grilletto. Le do rispetto e fa paura anche da muto e quando fiuta poi leva la sicura e ti saluta. La guardo ed ogni sbaglio mi tiene avversario, ed ogni guaio che io faccio lo bagna d'acciaio. Poi volo via con lei, non le rispondo, lei c'è scritto sul mio corpo, solo quello che amo al mondo. La mia pistola sputa fuoco, lei ama questo gioco e punta sulla testa di chi mi dà poco. È lei che scalda la mia fiamma quando freddo, lei che ha il ghiaccio nella canna quando vivo in questo inferno, è necessaria come l'aria che respiro e per cui vivo, è lei che mi accompagna in ogni video, e lo sa bene come penso e cosa sono, io carico le parte, è il mio suono. La mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, l'odio tanto quanto è necessaria. La mia pistola è macinare, spara tutti al sole, la mia pistola c'ha la rabbia nel caricatore, la mia pistola spara, la mia pistola è macinaria, l'odio tanto quanto è necessaria. 12.34 sulle libere frequenze di Radio Blackout, la puntata di oggi di Parole Ribelli va a concludersi e allora diamo un po' di appuntamenti per la settimana. Partiamo da domani mattina, appuntamento con la rubrica radiofonica mezz'ora prima del blackout. Domani vi verrà proposto dalle 8 del mattino Tropicalia, storia del movimento tropicalista. Radio Blackout e Centro Sociale Occupato Autogestito Gabrio presentano alla fine della fiera atto secondo, ore 20 aperitivo, ore 21 letteratura, conflitto e Val di Susa, presentazione dei libri Oggi tocca a me di Iuri di Molfetta e Le orme del lupo di Giaca, più letture di autori notav. Saranno presenti gli autori in via Cecchi 21/A nella Blackout House. Andiamo avanti con giovedì 8 maggio, benefit di Indimedia nella nuova occupazione Rabel Occupato in via Riberi sotto la Mole. Dalle 19 dibattito aperto, cos'è e a cosa serve che funzioni ha Indimedia. Alle 21 ristorante benefit Indimedia, apertura bar dalle 17, porta quello che vuoi, tu e partecipa. Un po' di incidenti mentre si leggeva questo appuntamento, le calligrafie dell'agenda non sono sempre decifrabili. Arriviamo a venerdì 9, entriamo nel fine settimana, di nuovo appuntamento con mezz'ora prima del blackout, dalle ore 8 sui 105.250, appuntamento con uno speciale su donne partigiane e liberazione. E ricordiamo l'appuntamento lanciato in corso di puntata, la Cavallerizza a partire dalle 18 nel cortile della Cavallerizza Reale, laboratorio di autoproduzione di birra artigianale, letture e serata danzante al seguito. Dio padre a Pietro in preghiera nel santo sepolto, con il santo sepolto chiamavi fedele il conflitto voluto dal sacro santo soglio del primo ministro di Cristo. Già dal primo inizio il principio chiaro come alla fede si unisse la brama di terra e denaro, la guerra sacra per fare salva la terra santa, la stessa terra detta promessa e della montagna di Abramo. Tutto cominciò l'alba, una massa muoveva a distanza tra loro stolti vivori, nobili caduti in disgrazia. Appariva un'armata già partita di stenti, qua partiva la male armata crociata dai pezzenti, ma queste genti prendevi si diedero ai cigli e putti, finché non incapparono sui primi avamposti turchi. Le loro teste morte restarono su quelle stesse terre, crestate dai veri crociati diretti a Gerusalemme. ore 12.40 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Parole Ribelli si avvia verso la fine. Vi aspettiamo martedì prossimo alle 10.45 sempre sulle frequenze di Radio Blackout. Un saluto da Silvestro. Un saluto anche da Eddie. Un saluto anche da Francesca. Andiamo a leggere un ultimo appuntamento che ci è stato segnalato ora via SMS. Questa domenica 11 marzo al Visrabbia di Avigliana, mercatino di Genuino clandestino. Dalle 10 dibattito con i produttori, a mezzogiorno pranzo tra le bancarelle, a seguire alle 15 laboratori di panificazione e saponificazione. Un saluto anche da parte mia, rimanete sintonizzati sui 105.250, tra pochissimi minuti il GR di Blackout. Buon ascolto.